24 mattino. Buongiorno, oggi Gianfranco Fabi con voi eccezionalmente per 24 mattina. Auguri ad Alessandro Milan per i suoi impegni. Parleremo tra poco della rassegna stampa, dei giornali di oggi, poi parleremo di libri, si apre il Salone del Libro di Torino, intervisteremo Giuseppe Laterza, editore, e poi parleremo di euro, della Grecia, il rischio Grecia, il rischio che la Grecia possa uscire dall'euro, e il nostro sondaggio è proprio questo: deve uscire dall'euro la Grecia. Di questo parleremo tra poco, intanto iniziamo con la rassegna stampa. In primo piano. Buongiorno, eccoci qua con i giornali di oggi. Ci sono due argomenti che dominano sugli altri: la sfida di Milano. Ormai mancano pochi giorni alle elezioni amministrative di domenica, si infiamma la sfida di Milano, dice il Corriere della Sera, e al centro c'è questa polemica per le dichiarazioni di Letizia Moratti. Ieri c'è stato un faccia a faccia televisivo tra Letizia Moratti e Giuliano Pisapia, e Moratti ha accusato Pisapia di aver rubato un veicolo, un'automobile, un furgone anzi negli anni della contestazione, e poi Pisapia, che nella diretta non ha potuto replicare perché si era in conclusione, ha comunque detto che era una calunnia, che avrebbe querelato la Moratti perché in appello questa condanna era stata revocata ed era stata assolto proprio perché il fatto non sussisteva. Quindi una grossa polemica a Milano in conclusione della campagna elettorale, ne parleremo più avanti. L'altra notizia è quella di Draghi, una svolta per Draghi alla BCE. Sembra che la Germania abbia dato via libera al governatore della Banca d'Italia per diventare il prossimo presidente della Banca Centrale Europea. Svolta per Draghi alla BCE, Tremonti lo candida. Sì, tedesco è il titolo del Corriere della Sera. BCE sì della Merkel a Draghi, Roma ufficializza la candidatura, Berlusconi una vittoria. Quindi sotto questo profilo, appunto, l'Italia sembra aver conquistato un punto, aver conquistato una poltrona importante, anche se indubbiamente, come sottolineano per altri giornali, e lo vedremo, Draghi sarà sicuramente una persona che rappresenterà la stabilità monetaria, non rappresenterà certo l'Italia, non farà certamente una politica di favoritismo verso l'Italia. Questo sottolineano i commenti che vedremo più avanti. Il Salone del Libro di Torino, anche questo è in primo piano, soprattutto sulla stampa ovviamente. Il Salone dei Libri che hanno fatto l'Italia, in questo senso l'inaugurazione di oggi, di 5 giorni di convegni, di incontri, di presentazioni con 1500 editori. Ricordiamo peraltro che anche Radio 24 è presente al Salone di Torino con un proprio stand, che è uno studio dove verranno realizzate in diretta molte trasmissioni, appunto, dei prossimi giorni. Un altro argomento in primo piano, soprattutto sul Messaggero, e si può capire perché, il terremoto in Spagna, e il Messaggero precisa nel giorno della profezia. Questa è proprio l'apertura del Messaggero. Ieri, lo ricorderete, si era diffusa questa leggenda metropolitana di un possibile terremoto a Roma. Il terremoto c'è stato, ma in Spagna, nel sud-est della Spagna, un terremoto violento, ha fatto una decina di morti a Lorca, e il Messaggero precisa morti e feriti a Lorca, il sismologo nessun collegamento con Roma. E lo schermo colorato di pallini verdi, scrive Maria Lombardi, verdi e blu sparsi sull'Italia a indicare dove la terra trema, non segnala niente di che. 37 scosse registrate in giornata, ma come tutti i giorni. Alle 18:45 si accende una spia sul monitor con la mappa di tutti i continenti, delle centraline del sud-est della Spagna, rimbalza nella sala sismica dell'Istituto Nazionale di Geofisica di Roma la notizia del terremoto. Ecco, però non dice il sismologo, rassicura, nessun collegamento con i fatti di Roma. Anche sul Messaggero c'è un'altra un editoriale dedicato a un'altra polemica di questi giorni sulla scuola, la scuola dei saperi, finiti in un quiz sulle polemiche attorno ai test dell'Invalsi, ai test, appunto, che dovrebbero rappresentare la capacità degli studenti di aver seguito, di aver imparato dalle scuole, e su cui, appunto, sul fatto stesso di fare dei test, il commento di Giorgio Israel sul Messaggero, e ci sono altri commenti anche sugli altri giornali, appunto, sul fatto che si possa valutare attraverso dei test e si rischi di avere una scuola sulla base frase di, che faccia, che prepari gli studenti solo per superare il test. Ecco, su questa polemica si innestano i commenti di oggi. Ma di questo e di altro parleremo nella seconda parte del nostro programma. Adesso ci fermiamo un attimo per le informazioni pubblicitarie. In primo piano. Torniamo a guardare i giornali di oggi, ma oggi abbiamo un ospite. Sentiamolo un secondo. Stars shining bright above you. Ed è la Fitzgerald, uno dei miti del jazz, e infatti ai miti del jazz è collegata una collana che oggi è presentata insieme al Sole 24 Ore, il primo CD di 25 CD book, libri che presentano appunto le storie del jazz. Si comincia da Ella Fitzgerald, si andrà avanti per 25 settimane, 9,90 euro oltre al costo del quotidiano, per questi dischi che rappresentano appunto i maggiori personaggi, da Miles Davis a Glenn Miller a Louis Armstrong, che hanno fatto e che fanno la storia del jazz con il Sole 24 Ore, da oggi per 25 settimane. Torniamo alle cose dei nostri giorni, alle polemiche dei nostri giorni. Come vi dicevo nella prima parte, domina sulle prime pagine il confronto, i veleni in TV tra Molatti e Pisapia, ed è interessante, prima di leggere un paio di commenti, anche due ricostruzioni diametralmente opposte che fanno La Stampa e La Repubblica. È stata una scivolata o è stata una strategia costruita a tavolino e ben convinta? E La Stampa, caccia al patacaro a Medeo la mattina, è per l'ipotesi dell'errore. Come si fa a commettere un errore così grossolano, si chiede a Medeo la mattina sulla Stampa. Ma chi le passa queste informazioni sbagliate? Ormai la frittata è fatta, appunto, afferma La Mattina, e con un titolo poi che riprende in seconda pagina: Berlusconi furioso, un errore grossolano. Ora cercate di rimediare caricando tutto sul fatto che Pisapia ha un passato di estremista di sinistra. Berlusconi sa che a Milano si gioca tutto, il governo, il rapporto con la Lega. Un autogol del genere non se lo aspettava dalla Moratti. Lei, capito il pasticcio che aveva commesso, ha cercato il premier, che però si è negato al telefono. Questo è Amedeo la Mattina sulla Stampa, e è un'interpretazione diametralmente opposta è quella di Repubblica, con Francesco Bei. Il titolo è: ma il cavaliere ora alza i toni, Letizia ha fatto bene con Pisapia, l'operazione Pisapia è perfettamente riuscita, ora va soltanto ripulita la scena, magari togliendo il cavaliere dal centro. Nessun dubbio che nel PDL, a dispetto della voce messa in circolazione su una presunta irritazione del premier per il colpo basso della Moratti, l'ultimo fuoco della campagna elettorale sia stato accolto da generale soddisfazione, a dimostrazione che la cosiddetta gaffe del sindaco è stata un'operazione pianificata e gestita al centro, compreso il feedback successivo. Quindi un'interpretazione diametralmente opposta da parte di Repubblica e della Stampa dello stesso evento, che comunque su tutti i giornali viene giudicato certamente una scivolata, anche perché appunto i fatti hanno dimostrato che Pisapia era stato successivamente assolto con formula piena. Non si tratta di una prescrizione, di una soluzione con formula piena per non avere commesso il fatto. Il commento di Stefano Folli sul Sole 24 Ore: all'improvviso questo pasticciato attacco al suo avversario cambia il tono e la cifra della campagna, senza dubbio corrisponde a un timore, quello di non riuscire a essere eletta al primo turno come accade nel 2006, e quindi di essere costretta al ballottaggio. E Folli si riferisce ovviamente alla Moratti, ma è tutto da verificare che il colpo a sorpresa di ieri sia utile a invertire la corrente. Se fosse stato un vero scoop avrebbe messo alle corde Pisapia, ma in questi termini potrebbe persino essere controproducente. In ogni caso, commenta Stefano Folli, seppure non avrà effetti sul voto dei milanesi, l'episodio scalfisce l'immagine del sindaco, ne rivela la fragilità o forse l'eccessiva fiducia dei consigli di qualche esperto di comunicazione. Dimostra che qualcosa non va come dovrebbe andare a Milano, nel cuore storico del berlusconismo governante, dove peraltro il bipolarismo è corretto dalla presenza di altri due candidati, uno centrista e un grillino. Chi pensa, conclude Stefano Folli sul Sole 24 Ore, come Bersani, che alla fine la partita sarà vinta da Pisapia, ricava dalla vicenda la conferma dei propri convincimenti. Chi invece pensa che Letizia Moratti sarà comunque comunque eletta magari al secondo turno perché Pisapia non è in grado di aggregare abbastanza consenso moderato, giudicherà il fatto di ieri una significativa caduta di stile. L'indizio che Milano in questi anni è cambiata e forse non in meglio. Questo è il commento di Stefano Folli sul Sole 24 Ore. Il titolo di Libero è Silvio alla riscossa, l'umore del premier è cambiato, la campagna elettorale in prima persona porta un recupero fenomenale di consensi, il centrodestra vincerà ancora anche perché è l'unico ad avere un leader. E in questo senso il commento di Vittorio Feltri è significativo. Vittorio Feltri dice in fondo che è stato solo un piccolo errore tecnico il fatto di aver dimenticato che Pisapia era stato assolto. Il problema, dice, al di là degli aspetti tecnici in materia di diritto, non è tanto l'esito processuale quanto la vicinanza del candidato della sinistra all'estremismo dilagante degli anni 70-80. E Feltri conclude il suo commento su Libero: perché si dà tanta importanza all'amministrativa del capoluogo lombardo? Milano è un laboratorio politico da sempre, vi sono nati il socialismo riformista, il craxismo, il fascismo, il leghismo, il Berlusconi e il berlusconismo. Non è solo una metropoli, è anche un simbolo. Il cavaliere non può permettersi il lusso di essere sconfitto a casa sua. Ecco perché da un paio di settimane è impegnato allo spasimo per spingere la Moratti, la quale si è giovata del suo aiuto, appunto, al punto di avere quasi la vittoria in tasca. E poi conclude Vittorio Feltri: va da sé che le amministrative non sono limitate alla cerchia dei Navigli, si vota in vari comuni e in varie province. Il conto complessivo sarà determinante per valutare lo stato di salute dei partiti. Il centrodestra ha vissuto un lungo periodo di crisi, ma anche la sinistra ha un equilibrio precario. La gara viene fra schieramenti acciaccati. Prevarrà il meno scassato, quello che comunque è un leader, discusso finché si vuole, ma con un grande temperamento, Berlusconi. E questo lo dice Vittorio Feltri, convinto appunto, come dice nel titolo di apertura del suo giornale di Libero, che Silvio è alla riscossa. Ancora alla politica è dedicato appunto il titolo di apertura invece del giornale su un altro tema, anche se anche il giornale diretto da Alessandro Sallusti ha una foto di Letizia Moratti e di Giuliano Pisapia. Finalmente la Moratti tira fuori le unghie e smaschera il passato estremista di Pisapia e dimostra che lui è incompatibile col ruolo di sindaco. Ma il titolo principale è Fini e D'Alema, alleanza immobiliare. Il leader di Affittopoli cerca l'inciuccio con l'uomo dell'affare Monte Carlo, obiettivo rafforzare il carrozzone anticavaliere e creare una casa comune per due politici travolti dagli scandali. Ecco, ovviamente sugli altri fronti dei giornali di opposizione si parla di fango. L'Unità: il sindaco diffama Pisapia, un furto nel suo passato querelata, il fango di Letizia. Giuliano Pisapia rifiuta di stringere la mano a Letizia Moratti nel confronto televisivo a Sky, agguato in TV, ma Moratti, innervosita dai sondaggi, usa la menzogna contro lo sfidante. Questa è L'Unità. E quindi su questo fronte c'è da registrare anche un commento di Gian Giacomo Schiavi sul Corriere della Sera. Gian Giacomo Schiavi sottolinea come Letizia Moratti ha sfoggiato un attivismo da maratoneta per riavvicinare ogni zona della città e ripetere il bis del 2006, quando l'ex prefetto Ferrante è rimasto inchiodato al 47%. Giuliano Pisapia è partito dalle periferie per proporre una svolta solidale, garantista e multiculturale. Quello che fino a qualche mese fa, commenta Gian Giacomo Schiavi su Corriere della Sera, era una missione impossibile, adesso sembra una partita aperta. Il 15 maggio può succedere di tutto, dicono i sondaggisti. E la profezia di Salvemini ricordava Gian Giacomo Schiavi, diceva che quello che succede a Milano succederà poi nel resto d'Italia. E quindi conclude Schiavi: la profezia di Salvemini si può aggiornare con le parole di un altro storico, Giorgio Rumi: Milano diventa grande quando ha un progetto per il paese. Però ora sceglie un sindaco, ma se vuole essere altra capitale, modello, guida, riferimento per il paese, un progetto, prima o poi Milano se lo dovrà dare e noi non cercheremo di ricordarlo. Era Gian Giacomo Schiavi su Corriere della Sera. Ci fermiamo un attimo per il traffico, ritorniamo tra poco. In primo piano. Eccoci qua ancora per la seconda parte della nostra rassegna stampa. Abbiamo parlato nella prima parte del dibattito o dello scontro, chiamatelo come volete, politico per le amministrative, soprattutto a Milano. Adesso parliamo degli argomenti economici. BCE, sì, della Merkel a Draghi, dice il Sole 24 Ore. Tra l'altro vi ricordo che il Sole 24 Ore oggi ha le istruzioni per l'uso, per le sanzioni ridotte a chi sbaglia i versamenti. Il fisco infatti cancella le maxi sanzioni, passa a penalità decisamente più convenienti. Si passa dal 100 al 200% al 3,75%. Può essere un affare per capire come leggere le istruzioni per l'uso sul Sole 24 Ore di oggi. E vogliamo parlare appunto di Draghi. Draghi ormai sembra che la strada sia spianata verso la BCE, verso la Banca Centrale Europea. Tra l'altro vi ricordo che nel nostro sondaggio alle 8:30 parleremo di Europa, parleremo di euro con la domanda: la Grecia deve uscire dall'euro, data la situazione sempre più complicata sul fronte del debito pubblico greco. Il commento al via libera della Merkel e quindi il sostanziale via libera complessivo a Draghi e alla BCE è sulla stampa, è di Mario De Ario. E dice che Draghi non potrà certo contare su acque tranquille. Tutte le monete sono infatti in fermento. Sul dollaro pesa l'ombra di un debito pubblico meno affidabile di un tempo, di un deficit pubblico di dimensione analoga a quello greco, di un deficit commerciale che, come risulta dai dati diffusi ieri, non accenna a diminuire nonostante la forte perdita di valore del dollaro nell'ultimo anno. E ancora Mario De Ario: non vanno purtroppo dimenticate neppure le particolari difficoltà del Giappone, oppresso da un debito pubblico ormai doppio al prodotto interno lordo. In quest'ampia prospettiva sono riduttive le considerazioni tipicamente italiane. Molti in Italia saranno tentati di considerare la partenza di Draghi per Francoforte soprattutto in termini politici locali, ossia come l'uscita di scena di un potenziale Presidente del Consiglio, di un eventuale governo di transizione o di emergenza, il che al momento attuale è francamente irrilevante. E soprattutto, continua Mario De Ario, gli italiani dovranno scordarsi l'antico vizio della raccomandazione, cioè non pensare che dal suo ufficio nella Torre dell'Euro di Francoforte Draghi possa o voglia avere un occhio di riguardo per l'Italia. Gli italiani avranno soltanto il vantaggio che deriva ovviamente dalla conoscenza profonda di Draghi della situazione italiana, il che potrà evitare eventuali malintesi. Ogni deviazione dall'attuale severo programma di rientro dei livelli di deficit e di debito da parte di un qualsiasi governo italiano nei prossimi anni rimarrà assolutamente vietata. Era il commento di Mario De Ario sulla prima pagina della stampa alla ormai sicura nomina di Draghi alla Banca Centrale Europea. Massimo Giannini su Repubblica dice: se questo miracolo del via libera a Draghi è stato possibile, lo si deve al buon lavoro fatto da Giulio Tremonti, l'unico ministro che, al di là dei clamorosi limiti nella gestione della politica economica, gode di qualche fiducia sulla scena europea. Può darsi che qualche effetto l'abbia avuto anche l'incosciente arrendevolezza di Berlusconi nei confronti di Sarkozy, dall'ultimo bilaterale italo-francese sui temi dell'immigrazione, della Libia, della scalata di Lactalis a Parmalat. Di certo ha giovato la trama dei rapporti diplomatici tessuti in questi mesi dal ministro dell'economia. In tutti i casi, se l'operazione Draghi andrà in porto, questo sarà un grande risultato per il governo italiano, di cui gli va dato atto. Ed è Massimo Giannini su Repubblica che lo scrive, e chi ha orecchie per intendere intenda. Andrà in porto, sarà un grande risultato per il governo italiano, di cui gli va dato atto, tanto più perché matura dentro un ciclo che vede il nostro paese oggettivamente sprofondato al punto più basso della sua reputazione internazionale. Draghi sicuramente, questo lo aggiungo io, potrà dare un risalto all'immagine italiana, un'immagine italiana all'estero che non è certamente ai livelli più alti. E di agenda difficile dell'italiano con l'incarico più alto parla anche il Corriere della Sera, con un commento di Danilo Taino, in quale conclude dicendo: per aggiungere problema a problema non c'è solo l'Europa. La crisi finanziaria del 2009 ha messo sotto sopra il sistema finanziario internazionale e Draghi lo sa meglio di ogni altro come presidente del Financial Stability Board, l'organismo incaricato di disegnare una riforma del sistema finanziario internazionale. Da una parte c'è il fatto che il sistema bancario mondiale non ha ancora effettuato cambiamenti capaci di renderlo più resistente e meno pericoloso durante le crisi. Dall'altra, sul piano macroeconomico, gli squilibri finanziari che hanno alimentato la drammatica crisi degli anni scorsi non sono stati superati. Paesi con grandi surplus commerciali come Cina e Germania rimangono tali. I paesi importatori, Stati Uniti in testa, faticano a uscire dall'angolo, con effetti di instabilità sul dollaro. In più, le tensioni sui mercati delle materie prime, con prezzi in altalena, rendono il quadro economico, prospettiva dell'inflazione in testa, estremamente instabile. E conclude Danilo Taino: felicitazioni dunque, signor Draghi, ha preso l'incarico più ingrato disponibile sulla piazza. E indubbiamente l'incarico di Draghi è un incarico difficile da gestire, anche perché i problemi sono tanti e l'Italia anche i suoi problemi, ma non sarà certo Draghi a poterli facilitare. Dobbiamo risolverci da noi, e dei problemi italiani ci ricorda l'esistenza sotto il profilo economico-sociale Francesco Riccardi in un editoriale su Avvenire, in cui si parla del rapporto dell'OCSE che fotografa le contraddizioni del nostro sistema economico, mentre il Fondo Monetario promuove i conti pubblici ma conferma l'allarme sulla disoccupazione giovanile. Fisco pesante, salari leggeri è il titolo principale di Avvenire. Urge risposta, il titolo dell'editoriale di Francesco Riccardi, che conclude: prima ancora che questione tecnica, il nodo è politico, e si parla soprattutto del peso del fisco sulle famiglie, un peso del fisco che si avvicina al 40% ed è molto più alto della media dell'OCSE. Il fisco amico della famiglia, sto leggendo l'articolo di Francesco Riccardi, oltre ad aver caratterizzato almeno due campagne elettorali nazionali, l'estate scorso fu posto come uno dei 5 punti fondamentali sul quale il Presidente del Consiglio ha chiesto la fiducia al Parlamento e al Paese. Da allora il grande tema è passato allo studio degli esperti e se ne sono perse le tracce. Mentre un'altra estate si sta affacciando, la pressione fiscale è cresciuta e si profilano manovre finanziarie per gli anni a venire. È perciò venuto il momento di scoprire le carte e mettere nero su bianco impegni concreti e tappe di realizzazione. Non vorremmo infatti che dai lavori della Commissione ministeriale emergesse, tra riduzioni di imposte e tagli alle prestazioni sociali, un'operazione a saldo zero o addirittura negativo per le famiglie. Sarebbe un colpo di grazia e non solo per loro. È un promemoria al fisco di Francesco Riccardi su Avvenire, sul fatto che ci sia una riforma fiscale da fare. Questo lo si dice anche da altre parti, in altri giornali. Avvenire sottolinea l'esigenza di tenere in primo piano le famiglie e la necessità appunto di migliorare la possibilità delle famiglie di vivere tranquillamente e di poter avere i figli che vogliono. Con questo si conclude la nostra rassegna stampa. L'appuntamento è dopo il GR con l'intervista a Giuseppe Laterza sui libri in Italia, e poi alle 8:30 con Bianco e Nero sull'euro, la Grecia e il nostro futuro. Grazie, a tra poco. 24 mattino. L'intervista. Buongiorno, l'intervista di oggi è con Giuseppe Laterza della casa editrice Laterza. Come dice il nome, oggi si inaugura a Torino il Salone del Libro, un appuntamento importante per fare il punto e per mettersi in contatto con la realtà del libro. Allora chiediamo subito a Giuseppe Laterza come sta il libro in Italia. Ah, guardi, compatibilmente con la crisi economica direi che sta abbastanza bene, nel senso che il libro tiene. I dati complessivi macroeconomici sono che il mercato del libro, come dire, non ha risentito poi in maniera così forte come altri settori. Devo dire che però ci sono poi problemi strutturali di antica data, e questi rimangono: la carenza delle biblioteche, la carenza, diciamo, degli investimenti pubblici nella lettura, che naturalmente si riflette anche poi sul mercato. Indubbiamente c'è un problema anche di presenza del libro all'interno delle scuole, di abitudine dei giovani alla lettura. I giovani leggono? Ma guardi, contrariamente al pregiudizio, i giovani leggono molto. Diciamo, c'è una fascia di età che è quella dell'adolescenza, dove la lettura ha una flessione, ma sia nella fase, diciamo, precedente, quindi bambini, sia successivamente ai ventenni, tutti i dati ci dicono che i giovani leggono parecchio, più di quanto non leggono gli adulti, quindi questo dà speranze per il futuro. L'editoria per bambini, tanto per dire, è una delle più fiorenti e attive in Italia. Naturalmente è chiaro che si è in competizione molto forte oggi con internet, questo significa che bisognerà anche pensare a forme di libro diverse, per esempio gli ebook, che sono una forma in evoluzione dove si potrà fare interagire testo con immagini, musica, eccetera. Ecco, l'ebook sta prendendo piede come domanda non solo per i giovani ma anche per i meno giovani come forma alternativa di libro. Può essere una strada a medio termine anche per gli editori? Guardi, io direi certamente sì. Diciamo a medio termine, come lei ha detto giustamente, non è nell'immediato. Allo stato l'ebook in Italia ha un'incidenza che è meno dell'1% del mercato, quindi è ancora molto molto modesta. Probabilmente conviveranno le varie forme di lettura, come è stato anche in passato, tra libro e internet, appunto la televisione e altri mezzi di comunicazione. Certamente, soprattutto per i giovani, le forme di lettura alternative, digitali, diciamo, che soprattutto nel collegamento poi con internet, a mio parere potranno riservare le sorprese più interessanti. Ecco, a questo proposito il Salone del Libro è anche un'occasione di incontro anche per i giovani. Il Salone del Libro ha anche molti appuntamenti, peraltro Radio 24, lo ricordo, è presente con un suo stand e molte trasmissioni durante i giorni da domani a lunedì saranno realizzate in diretta dal Salone del Libro. Ecco, un consiglio per chi va a visitare il Salone del Libro, anche un consiglio magari di un libro La Terza in Evidenza, editore. Ma guardi, prima cosa io consiglierei, visto che c'è veramente di tutto, di farsi un programma, leggersi con attenzione il programma del salone e scegliersi gli incontri dove si vuole andare, riservandosi un po' di tempo per andare a zonzo, diciamo, per la curiosità. Per quanto riguarda i nostri incontri, beh, noi abbiamo incontri di vario tipo. Se posso segnalare, diciamo, un incontro particolarmente importante che faremo sabato. Sabato faremo un incontro sul tema dei 150 anni della storia italiana, a cui parteciperanno grandi studiosi come Alessandro Barbero, Luciano Canfora, Tullio De Mauro, Massimo Montanari. Si parlerà della storia, ma anche della lingua italiana e del modo di mangiare come caratteristico degli italiani. Queste persone sono persone che hanno anche una grande capacità di parlare in pubblico, sono molto brillanti e quindi consiglio a tutti, sarà sabato 14 alle ore 10:30 nella Sala Azzurra del Salone Libro di Torino. Allora aggiungiamo anche un consiglio per Radio 24, sabato ci sarà una puntata speciale di Chiedo Asilo dalle 18 alle 19 proprio nello stand di Radio 24 insieme ad altri programmi durante questi giorni a Tempo di Sport, Essere Benessere, La Zanzara. Quindi un Salone del Libro che si presenta con una prospettiva, appunto, con tante offerte, 1500 espositori, anche i piccoli editori, può essere possiamo guardarlo con ottimismo, Giuseppe La Terza? Ma dobbiamo guardarlo con ottimismo, come si dice, l'ottimismo della volontà. Il libro è uno strumento fondamentale di crescita personale per ognuno di noi, di sviluppo della fantasia, di sviluppo della comprensione del mondo, ma anche collettiva. Il libro è uno strumento per raccoglierci, per ritrovarci. Ecco, un mondo senza libri è un mondo povero da tutti i punti di vista, perfino quello economico, e quindi dobbiamo lavorare coi libri insieme ad altri mezzi, perché il libro ci può dare molto e può continuare a darla anche nel mondo del futuro. Grazie Giuseppe La Terza. Dalla ricchezza della cultura, tra poco parleremo della ricchezza vera e propria, parleremo del vile denaro, parleremo dell'euro, della Grecia e parleremo appunto della possibilità che la Grecia esca dall'euro. Grazie e a tra poco. 24 mattino. Eccoci tornati a 24 mattina. La crisi dell'euro, Atene, la crisi della Grecia, del debito greco, dovrà portare la Grecia ad uscire dalla moneta unica? E questa è la domanda del nostro sondaggio di oggi. Per ora la maggioranza si esprime per un no, il 70%, mentre il 30% dice di sì. Ma ragioneremo insieme a bianco o nero. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Eccoci qua, allora la crisi della moneta unica europea, la crisi soprattutto della Grecia e di altri paesi come il Portogallo, l'Irlanda, la Spagna, come potrà essere risolta, che cosa potrà portare? E allora lo vediamo con alcuni ospiti e con le vostre telefonate al numero verde 800 24 00 24, i messaggi sms 349 238 6666, e se volete votare al sondaggio su www.radio24.it. Alberto Quadrio Curzio, buongiorno. Buongiorno. Economista, presidente della Facoltà di Scienze Politiche dell'Università Cattolica di Milano. Quadrio Curzio, innanzitutto una domanda: sarebbe possibile per un paese uscire dall'euro? In linea teorica sì, ma in linea di fatto no. perché i costi di un'operazione di tal simile e le successive conseguenze che potrebbero derivarne all'euro stesso e alla tenuta di tutto il sistema di Eurolandia sarebbero, credo, disastrose. Bini Smaghi, che è membro del board, dell'executive board della BCE, ha detto che si tratterebbe di un suicidio politico e non ha usato, io credo, a caso la qualificazione di politico, perché andrebbe a significare mettere in discussione anche la struttura di questa, sia pure non conclusa, scelta politica di andare verso un sistema federale il cui primo passo è stata la moneta unica. Quindi ritengo che teoricamente sì, fattualmente no. Ecco, quindi concretamente che cosa può fare la Grecia e che cosa può fare l'Europa? L'Europa sarà disponibile a dare dei finanziamenti aggiuntivi alla Grecia, ma non è come tenere un po' in vita, non certo un malato terminale, ma tenere in vita una situazione che deve trovare delle altre soluzioni, professor Quadricurzio. Io credo che quanto l'Europa ha fatto sia stato ben fatto attraverso lo European Financial Stability Facility e prima ancora attraverso i finanziamenti per 110 miliardi alla Grecia, e reputo che bisognerebbe pensare oggi ad un allungamento della scadenza del prestito alla Grecia che era stata prefigurata in 3 anni. E inoltre bisognerebbe che la Grecia desse corso a un forte programma di privatizzazioni, o meglio di vendite, che va ben oltre il programma di contenimento dei conti pubblici che la Grecia stessa ha già posto in essere, che è sotto il controllo del Fondo Monetario, della Banca Centrale Europea e dell'Unione Europea. Questo problema tuttavia si ribalta all'interno della Grecia, perché se, come è accaduto ieri, ci fossero delle manifestazioni direi quasi da rivoltosi, allora si complicherebbe molto la situazione. In questo momento io ho più timore di eventuali disordini in Grecia di quanto non abbia sulla tenuta dei conti greci. Se salta il governo, se il governo si indebolisce troppo e non riesce quindi da un lato a vendere e raccogliere circa 50 miliardi di euro da vendite e dall'altro a continuare il proseguimento del programma di riordino dei conti pubblici, allora la situazione si complica. Detto in altri termini, non vedo problemi dal punto di vista del sostegno europeo, vedo problemi dal punto di vista della tenuta interna della Grecia medesima. Ecco, ma professor Quadricurzio, sarebbe possibile una ristrutturazione del debito greco, denominato in euro, ma comunque resta sempre un debito greco, un allungamento delle scadenze, se non un consolidamento? Ma se l'allungamento del prestito che è stato concesso da Unione Europea, da Fondo Monetario, viene fatto come allungamento istituzionale, rimangono in vita le scadenze dei titoli di Stato greci e non vanno a essere ristrutturati essi stessi. Se invece si pensasse a incidere sulla scadenza dei titoli di Stato greci collocati sul mercato, allora la situazione cambia. E tuttavia sarebbe una soluzione di minor danno rispetto a quella addirittura di falcidiare il valore stesso dei titoli di Stato, e quello sì sarebbe davvero un default. Quindi io credo che nella graduazione degli interventi prima ci dovrebbe essere un allungamento della scadenza del prestito concesso dai soggetti istituzionali, e nella misura in cui la Grecia tenga al suo interno, questo a mio avviso è il punto più delicato, non toccare assolutamente le scadenze dei titoli di Stato e ovviamente meno che mai il valore di rimborso dei titoli di Stato stessi. Grazie professor Quadricurzio, resti con noi. Volevo sentire due giornalisti, due esperti economisti su questo fronte, per vedere se la Grecia sta attuando le misure necessarie. Stefano Cingolani, buongiorno. Buongiorno. Stefano Cingolani è editorialista del Foglio, ha scritto un libro recentemente, Bolle, balle, sfere di cristallo, dedicato alla crisi economica. Ne parleremo a Radio 24 tra qualche giorno, ma oggi parliamo di Grecia. Cingolani, la Grecia sta facendo abbastanza? Ma sta facendo, ma certamente è durissimo quello che deve fare la Grecia. Il suo debito sul PIL, che cos'è, 160, insomma, ma si muove verso l'alto, ci sono previsioni che lo vedono già andare verso livelli molto molto più elevati. 50 miliardi, diceva il professor Quadrio Curzio, 50 miliardi di euro da raccogliere con le privatizzazioni, tagli selvaggi pesanti alla spesa pubblica, reazioni sociali, ne parlava il professore poco fa. Insomma, il rigore, noi naturalmente siamo tutti per il rigore, ma fino a che punto può arrivare? Fino al rigor mortis, naturalmente questo non è possibile. Io penso che anche se le ricette che il professor Quadrio Curzio ci ha spiegato sono quelle più realistiche, quelle che verranno seguite diciamo nel breve periodo, però noi dobbiamo cominciare a pensare se non conviene non rinviare più il momento della verità. Che cosa voglio dire? Voglio dire che forse l'idea di un intervento che può essere anche scioccante, ma che insomma una sorta di aprire la valvola di sicurezza e consentire alla Grecia di uscire dall'euro in modo concordato con si possono studiare moltissime formule, poi i tecnici qui sapranno come sistemarle, come aggiustarle. Insomma, un'uscita temporanea per consentire alla Grecia di svalutare, di recuperare produttività, insomma per dare alla Grecia margini di flessibilità e favorire l'aggiustamento, secondo me prima o poi diventa inevitabile. Allora invece di trovarci poi di fronte al fatto compiuto è meglio cominciare a studiare un processo graduale. Insomma, poi ci troviamo di fronte alla Danimarca che sospende unilateralmente Schengen, come è avvenuto ieri, insomma. È un po' più complicato probabilmente sospendere l'euro, uscire dall'euro, tornare alla dracma. Ci sono molti sms, molti polemici dicendo l'euro è stata una presa in giro, qualcuno la mette su questo tono, non dovrebbe uscire la Grecia, dice un altro sms, dovrebbe uscire l'Italia e quindi magari anche la Spagna e il Portogallo, e fare magari un'area di monete tornando alla politica delle svalutazioni competitive. Beh, forse una nostalgia del passato non molto fortunato. Mario Margiocco, editorialista del Sole 24 Ore, è un grande osservatore della realtà internazionale. Visto dall'America, come molto spesso guardi tu le cose, l'euro è una moneta forte? L'euro non ha mai avuto grande popolarità negli Stati Uniti, ha alcuni grandi amici, Paul Volcker è uno di questi, però non ha mai avuto grande popolarità, perché si è sempre detto che alla prima crisi sarebbe entrato in grandi difficoltà. Alla prima crisi ci siamo, ci sono grandi difficoltà. Io credo però che anche se con un'ipotesi teorica, quello che diceva Cingolani è giustissimo, sul lato pratico credo che sia molto molto difficile, perché significherebbe buttare a mare 60 anni di politica europea, e questo è, come diceva il Bini Smaghi citato dal professor Quadrio Curzio, sarebbe un errore politico di enorme grandezza. Ecco, indubbiamente il problema è molto grosso, forse abbiamo, come il professor Quadrio Curzio ha convinto qualche ascoltatore, sta crescendo la percentuale dei no al nostro sondaggio, siamo quasi arrivati al 75% dei no all'uscita della Grecia e quindi a una modifica sostanziale della moneta unica europea. Ne torniamo subito dopo anche con gli ascoltatori e con il nostro sondaggio, intanto le notizie sul traffico. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Eccoci di nuovo a parlare per l'ultima parte del nostro bianco e nero del tema dell'euro. C'è un ascoltatore che ci dice no, non esca la Grecia, esca la Germania dall'euro, lasciamo l'euro che sia la moneta degli altri paesi, la Germania deve avere una moneta forte. Antonio da Milano, buongiorno. Buongiorno. Ci dica. Lavoro sui mercati finanziari e noi non compreremo mai i titoli greci anche se supportati dalla comunità europea, perché semplicemente il piano di rientro greco è insostenibile, come diceva Cingolani, quindi stiamo soltanto rinviando il momento del disastro. E purtroppo, se avvenisse con già un prestito erogato da questo fondo europeo, il default si riverserebbe anche sul fondo. Il fondo europeo che viene creato non è denaro vero, è denaro che gli Stati europei prendono in prestito per salvare altri Stati europei. Quindi si innesca una reazione di tipo nucleare a catena. Quindi lei è favorevole all'uscita immediata della Grecia dall'euro? Intanto la Grecia deve prendere atto che c'è una situazione, quindi o esce dall'euro e ristruttura la sua economia, oppure svaluta il suo debito pubblico, cioè lo fa market e diciamo defaulta su parte del debito. Altre soluzioni non ce ne sono tutti misure temporanee che vanno solamente a aggravare il problema in futuro. Quindi più che un medico generico ci vuole un chirurgo capace di incidere sulla malattia. L'errore è stato prima non controllare i conti pubblici greci quando faceva le crescite al 4% drogate. Il secondo è stato sostanzialmente valutare che in nome dell'Europa tutti i paesi sarebbero diventati virtuosi, improvvisamente industrializzati. Una moneta non può tenere insieme realtà economiche e sociali diverse. Una moneta deve rispecchiare almeno un blocco omogeneo. Da questo blocco omogeneo sono uscite Irlanda, Portogallo e Grecia. Grazie mille, grazie Antonio. Sentiamo Mimmo da Roma. Sì, buongiorno. Buongiorno. Non sono d'accordo con il professor Quadocurzo sul fatto che la vedo teorica la possibilità che la Grecia esca dall'euro. Ovviamente la Grecia non ha fatto, ha rinviato gran parte delle riforme che doveva fare, come altri paesi, tra cui l'Italia. Oggi si trova effettivamente di fronte a un piano di rientro difficilmente sostenibile, però credo che nell'allungamento e soprattutto nella ristrutturazione del debito ci sia l'unica soluzione, ovvero sia garantendo il capitale, che è l'elemento centrale per mantenere un clima con i risparmiatori di fiducia, però una rinuncia volontaria a una parte degli interessi che in qualche modo, soprattutto sulle emissioni ultime, sono stati emessi e sono stati richiesti al mercato per sottoscrivere i titoli, ecco, su quegli interessi probabilmente una ristrutturazione concordata col mercato è forse l'unica soluzione possibile. Le altre soluzioni effettivamente, come quella dell'uscita, le vedo effettivamente traumatiche e difficilmente realizzabili, se non quasi impossibile. Grazie mille, ci sono appunto molti sms, molti dicono l'Italia dovrebbe prendere posizione più rapidamente. Ce n'è uno simpatico, ve lo leggo, che dice: ma è giusto che la Grecia riprenda la dracma, la svaluti, così noi pagheremo meno per le nostre vacanze a Rodi e a Creta. E quindi un interesse privato in atti politici complessivi. Ma volevo tornare ai nostri ospiti appunto per concludere un po' questa panoramica sui problemi. Allora, a questo punto, professor Quadrocurzio, è importante tuttavia risolvere e isolare il tema greco per evitare una reazione a catena. C'è un rischio di questa reazione a catena: Portogallo, Spagna, Irlanda e qualcuno dice anche Italia? Ma guardi, è ovvio che le considerazioni fatte dai colleghi prima sono tutte considerazioni razionali, meditate, e i diversi punti di vista sono tutti molto rispettabili. Detto questo, io credo che si debba scegliere la via del male minore, e qui evidentemente ci sono delle preferenze personali. Io parto da due considerazioni: uno, che la Grecia è un piccolo paese di Eurolandia, il suo PIL arriva a stento al 3,5%, il debito supera di poco il 3,5%. Non si tratta di un grande paese, è come se fosse una regione o in uno Stato federale, uno delle componenti della federazione che si trova in gravissime difficoltà. Il problema, a mio avviso, è prevalentemente di forza interna del governo greco, che probabilmente non basta, ci vorrebbe un governo di coalizione, ad imporre un piano di risanamento e di privatizzazioni molto forte, che tiri fuori il paese da questa situazione. Se questo accade, io credo che l'Europa sia in grado di sostenere la Grecia per le piccole dimensioni di cui si parlava prima, non le grandi dimensioni. Non stiamo parlando della Francia, della Germania o dell'Italia, ma di un piccolo paese. Detto questo, vi è un altro profilo, anzi due, che dobbiamo considerare. Uno, che le banche tedesche e francesi, non quelle italiane, sono molto esposte verso la Grecia e notoriamente verso il Portogallo e l'Irlanda. Se si comincia a tagliare sul valore dei titoli greci, chiaramente le banche ne prendono un bel contraccolpo e il sistema può traballare tutto. Io credo, come è stato detto più volte, che anche la sia pur lenta determinazione tedesca a sostenere la Grecia abbia pur qualche specifico interesse della Germania. Le sue banche vanno infatti protette. Non vorrei poi che un eventuale abbandono della Grecia determinasse ulteriori interventi per effetto domino sul sistema bancario in altri paesi, rendendo più difficile ad altri paesi di tenere in ordine la propria finanza pubblica. La seconda considerazione che vorrei fare, certamente la Grecia in passato si è comportata male e i soggetti europei che dovevano vigilarla non l'hanno vigilata. Quindi bisognerebbe che, al di là del rapporto a suo tempo prodotto dalla Commissione europea per giustificare le proprie mancanze nei controlli, ebbene l'Europa nelle sue istituzioni facesse un attimo di esame di coscienza per vedere che cosa non ha funzionato. E tra queste istituzioni non possiamo dimenticare c'è la Banca Centrale Europea, proprio in questi giorni sembra esserci via libera a Draghi. Solo una battuta, professor Quadrocuzio, potrà cambiare la politica della BCE con Draghi al vertice? No, io credo che la BCE abbia ben operato e Trichet abbia ben operato. Io spero che Draghi arrivi a quella posizione, ma non penso che ci saranno dei cambiamenti significativi. E io vorrei ricordare un episodio: quando si verificò la prima insorgenza della crisi greca e i tedeschi, soprattutto i partiti tedeschi, erano restii a fare un intervento, forse non capivano esattamente la portata del problema, Trichet giunse persino ad andare al Bundestag a incontrare i capigruppo dei partiti tedeschi per spiegare con Schauble le ragioni per cui la Grecia non andava abbandonata. Quindi direi che anche dal punto di vista politico si è preso delle responsabilità Trichet che un banchiere centrale asettico non si sarebbe preso, e questo a mio avviso depone a vantaggio di Trichet. Grazie mille professor Quadrocuzio. Volevo una battuta conclusiva da Stefano Cingolani e Mario Margiocco. Tra un anno facciamo i profeti, rischiamo di fare i profeti, saremo ancora qui a discutere dei problemi, e vuol dire che i problemi ce ne saranno ancora, ma questo in fondo è un dato positivo, oppure ci saranno dei provvedimenti drastici da qui a 12 mesi? Stefano Cingolani. Io credo che saremo ancora a discutere dei problemi, perché sarà difficile prendere delle misure drastiche. Prima il professor Quadrocuzio diceva è come se la Grecia fosse un piccolo stato di una federazione, quindi bisognerebbe aiutarla, ma il problema è proprio questo: non c'è una federazione, l'Unione Europea non è una federazione, non è uno stato federale. Grazie quindi... Cingolani, abbiamo pochissimo tempo, Margiocco, una previsione sul futuro rapidissima. Ma io penso che la realtà del coinvolgimento delle banche europee, non soltanto in Grecia ma negli altri paesi che potrebbero essere contagiati, alla fine costringerà a salvare un paese che sta all'Europa come la Val d'Aosta sta all'Italia, solo che l'Italia è uno Stato unitario, l'Europa no. Non ancora, ma potrà contribuire forse questo a fare una maggiore unità europea, una maggiore solidarietà, però bisogna che i greci si aiutino anche da soli, come diceva giustamente questo Quadrocuzio, la grande politica devono farla anche loro, dimostrando di appunto di beneficiare positivamente degli interventi europei. Intanto il sondaggio continua, siamo quasi sul 75% di no all'uscita della Grecia dalle euro e il resto invece di sì. Io ringrazio Alberto Quadrocuzio, Stefano Cingolani e Mario Margiocco. Tra poco Deborah Rosciani vi parlerà delle concessioni delle spiagge. L'appuntamento con Bianco e Nero e con Alessandro Milan è a domani. Arrivederci.